Allora, vi diamo il benvenuto a Bruxelles. Abbiamo appena finito di vedere il film, effettivamente, prima di tutto congratulazioni. Quello che ci ha colpito di più è stato l'uso della fotografia. E in effetti mi è sembrato di essere un po' un teatro nel teatro. Che cosa ci puoi dire in merito? Ma il problema che mi ero creato quando ho scritto la sceneggiatura del film era proprio perché venivo da un libro, da un romanzo di Roberta Laimo, che era una storia vera tradotta in maniera letteraria. E lì mi mancavano le immagini, allora ho tradotto dopo tempo attraverso un mio immaginario, che è quello dell'immagine, quindi un regista fa immagini, e lì ho lavorato sull'aspetto anche dell'evocazione della mia città, quindi non ho girato a Palermo, ho girato in altri luoghi, addirittura volevo girare in Ucraina più che in Italia, però poi alla fine mi sono reso conto che nella regione Puglia ho trovato delle cose che mi evocavano i quartieri popolari di Palermo, quindi ho fatto un lavoro sull'immagine. Quindi partendo invece con i personaggi, tu descrivi molte cose in questo lungometraggio, racconti giovani, racconti bambini e racconti anche gli adulti, e quello che ci è sembrato di vedere è che per quanto riguarda i bambini e i giovani c'è poca speranza, ma l'Italia è davvero solo questo? Non è compito mio. Sicuramente io non mi sono posto il problema di essere un messaggero dell'apocalisse oppure di rendere il negativo della vita, cosa che ho fatto in passato con la vita in generale, però sicuramente oggi la famiglia per sopravvivere ha bisogno di tante cose, oggi per sbarcare il lunario è molto complicato, quindi mi sono sentito uno specchio di una realtà, ma senza volerlo, senza mandare quel messaggio, no? Quando dicono il messaggio, perché ho voluto denunciare una situazione europea, italiana, mi è venuto naturale perché la storia di Roberto dal libro mi dava questa possibilità, allora ho raccontato più che la tragedia che l'ho raccontata, la tragedia economica della sopravvivenza, anche un futuro di un ragazzo figlio di Ciraulo che non ha nessuna speranza. Non ha nessuna speranza, il padre anche come si pone al figlio, non è soltanto un fatto economico, è anche un fatto di ideali, di sopravvivenza del futuro. Quindi non sono io a dire che non c'è speranza, ma sicuramente l'aspetto della storia ti porta a riflettere più che non avere speranza. Allora, tu utilizzi molto la fotografia bianco e nero. E la utilizzi soprattutto quando mi è sembrato di capire ci sono questi momenti un po' di crisi nel film. E a proposito quindi della crisi, quanto ti ha ispirato, diciamo ispirato, mi rendo conto non è la parola migliore, però la situazione attuale, questa crisi economica che ormai da anni ci accompagna e dalla quale sembra non riusciamo più a uscire? Ma guarda, non è lo scopo del mio film, nel senso che come dicevo poco fa, il film è soltanto una riflessione che io voglio dare, cioè nel senso che non era previsto, io racconto fiabe, il cinema è una fiaba con una forma, con un'immagine, con la musica, con l'emozione, poiché riguardi l'aspetto realistico non è lo stesso autore che dovrebbe dirlo, è una riflessione che dovrebbe fare chi vede il mio film. Beh, comunque questo messaggio è, magari tu non l'hai pensato, però mi sembrava, diciamo, quasi calzante che ci fosse un ritorno anche alla nostra realtà, perché la Sicilia che descrivi, insomma, è di qualche tempo fa, e ci sono tematiche che ancora ritornano. E c'è ancora un altro aspetto sul quale volevo avere la tua opinione, che è quella delle donne. Sembrano silenziose, sembra che non abbiano mai la parola, però poi nella parte finale succede qualcosa, c'è un po' un cambiamento nelle parti. Che cosa ci puoi dire su questo? Ma il matriarcato è assolutamente ancora nel contemporaneo, perché io ho fatto riferimento a quello che succede oggi nel contemporaneo, omicidi che sono successi coperti da una radice familiare, quindi da un matriarcato, in questo caso da una madre. Io mi riferisco al fatto di Sara, che ancora non si capisce chi è colpevole, quindi è una cosa abbastanza ridicola anche da immaginare che ancora non si sappia chi sia, anche se io penso forse potrei essere un giudice, un avvocato per poterlo decidere, però sicuramente quello che è la storia dei Ciraulo rappresenta veramente un realismo, cioè un contemporaneo, ma come sempre dico, io non voglio parlare della realtà, voglio soltanto arrivarci attraverso il mio modo di immaginare. Certo. Ecco, come ce l'ha nelle fiabe. Un'ultima cosa prima di passare invece alla parola all'attore protagonista. L'immagine della nave, quella sospesa a metà, l'hai presa dopo gli episodi di gennaio? No, assolutamente no. No. Non vorrei essere stato un... preparato, come si dice, quando uno prevede... No. Allora, quanto è stato difficile recitare in silenzio? Ma sicuramente parecchio, perché insomma è un personaggio molto dimesso, quindi insomma lavorare su queste corde non è una cosa che insomma è venuta immediatamente, cioè è voluto un grande studio che poi è stato messo da parte, cioè sparito, come dire, per lasciare questa appunto questi silenzi che devono però raccontare, non sono vuoti, quindi spero di esserci riuscito. Assolutamente, guarda, sei stato bravissimo soprattutto nell'espressività, ti guardavo veramente, ammiravo sia la postura sia il modo anche di rincorrere, diciamo, il padre Tony Servillo, e quindi mi viene naturale chiederti com'è stato recitare con lui. Ma sicuramente lui è un grande esempio di attore, per me è stato una grande fortuna poterlo incontrare, poter capire come lui si approccia al mestiere. Ed è per me un esempio da seguire, sicuramente, un grande maestro. Che cosa vuoi dire ai nostri amici ascoltatori che lunedì verranno qui a vedere un'altra proiezione? Magari una parola, un messaggio in particolare a coloro che ci ascoltano? Vederlo, perché è un film sicuramente, secondo me, prezioso, perché Daniele ha un modo di raccontare sincero, quindi insomma è un film sincero, e quando c'è una sincerità nell'espressione è sempre importante. Che cosa farai nel futuro? Continuerai col cinema o invece ritorni al teatro? Adesso vado a fare uno spettacolo al Piccolo Teatro di Milano con Ronconi, e quindi sarò impegnato fino a febbraio, e poi ci sono altri progetti, però vediamo insomma come si evolve la situazione. Va bene, allora noi ovviamente ti auguriamo tutto il meglio, speriamo di ritrovarti nuovamente a Bruxelles. Grazie, io spero anch'io di ritornare con qualche altro film. Perché no? Bocca al lupo. È stato un piacere.